English 24. Un saluto da Marta Cagnola e da Giulia Crivelli. Questa settimana parliamo di un film che è da qualche giorno nei cinema italiani, un film che a me ha divertito moltissimo. Io sono tra le fan più scatenate di questo romanzo e quindi già abbiamo capito che stiamo parlando della versione di Barney, un romanzo straordinario di Mordecai Richler. Un romanzo che tutti i fan avevano un gran timore di vedere sul grande schermo. Non è esattamente identico, una versione un po' più dolce, insomma appunto un po' più edulcorata di questa versione di Barney e soprattutto di questo Barney cattivissimo. Ne abbiamo parlato qualche tempo fa, in particolare ne abbiamo parlato alla Mostra del Cinema di Venezia quando era in concorso insieme al regista e all'attore protagonista. Cominciamo subito a sentire cosa ha spiegato Richard J. Lewis, il regista, proprio di questo aspetto della paura di adattare un romanzo così amato. It was scary, you know, it's such a beloved novel, you know, it's such a wonderful book that both Italians and Canadians alike have embraced. So you wanted to, for me, there was a lot of pressure to make sure that the essential nature of the book got translated to the screen. And, you know, that for me had to do with Barney Parnofsky. I think the relationship that he had with Miriam basically is translated well from the page to the screen. That was the most important thing to me to do. But to answer your question, I did feel the pressure. And, you know, every day I felt the pressure, every day. C'era un po' di pressione, effettivamente la tensione nell'affrontare un romanzo leggendario e farlo diventare film. Richard J. Lewis ha detto sì, è vero, faceva paura. It was scary, naturalmente pauroso, ricorderete la serie dei Scary Movies, e scare è la paura e to scare vuol dire mettere paura, tant'è che lo scarecrow, come la canzone di John Cougar Mellencamp, Rain on the Scarecrow, è lo spaventapasseri, quindi tutta la paura in tutte le sue declinazioni, e in questo caso è la paura di tradurre questo beloved novel. Beloved è un rafforzativo della parola loved, perché anche loved avrebbe avuto lo stesso significato, cioè una novel, un romanzo amato, ma beloved è molto amato, è come dire super amato. Amato da italiani e canadesi, non solo perché è un film canadese che è stato presentato a Venezia, quindi in Italia, ma proprio perché è anche una coproduzione proprio fatta dal Canada e dall'Italia, da Fandango, da Domenico Procacci per l'Italia. L'hanno amato, both Italians and Canadians, entrambi. Sì, notate tra l'altro l'uso, noi diremmo in italiano, tradurremmo sia gli italiani sia i canadesi, o in un modo che a me piace un po' meno, ma andrebbe bene lo stesso, sia italiani che i canadesi, invece in inglese si mette both davanti and alike alla fine, quindi both Italians and Canadians alike. I like both chocolate and white and dark chocolate alike. Mi piace sia il cioccolato bianco che il cioccolato nero. Cosa ha cercato di fare Richard J. Lewis? Beh, era naturalmente tradurre, no? Sappiamo quanto sia difficile, a volte i film diventano più belli, più memorabili dei libri, molto spesso avviene il contrario, che invece in questo caso the movie got translated to the screen. Questo usare il got come ausiliario per fare la forma passiva è una cosa che fanno molto di più gli americani che non gli inglesi. Avrebbe potuto dire, anzi forse sarebbe anche stato più corretto dire to was translated to the screen, però invece ha usato questo got translated to the screen, e naturalmente bisognava fare questa cosa nel modo più convincente possibile, soprattutto per chi aveva letto il libro, perché poi magari chi non ha letto il libro giudica solo il film, e tanto meglio per lui. Poi dice effettivamente, per rispondere alla domanda che era stata fatta in conferenza stampa, che era appunto ha sentito una pressione nel realizzare questo film, molto sincero Richard J. Lewis, non nega, e sì che c'era. E qui usa di nuovo una forma rafforzativa, avrebbe potuto dire I felt the pressure, e invece dice I did feel the pressure, e infatti subito dopo ci fa capire che l'ha usato per rafforzare, perché poi dice every day I felt the pressure. Anche qui avrebbe potuto essere ancora più rafforzativo e dire every day I did feel the pressure. L'ha usato una sola volta, però insomma ce l'ha fatto capire il messaggio. We got the message, abbiamo avuto il messaggio, cioè che effettivamente questa pressione di far bene, questa traduzione, questa translation from the page to the screen, dalla pagina allo schermo, l'ha sentita. E una delle cose più difficili in questi casi è trovare un attore protagonista che renda incredibilmente il protagonista del film. In questo caso è riuscito bene a Paul Giamatti, anche perché per la sua interpretazione ha ricevuto il Golden Globe per il miglior attore in un film commedia o musicale. Una bella anticamera degli Oscar. Tra qualche giorno vedremo se è candidato anche all'Oscar questo Paul Giamatti, che ecco come ha scelto di costruire il personaggio. I'm a lovable rogue. So it's all right. You know, I looked at the book. He's very irascible in the book, and I think in transferring it to the script, inevitably he softened a little bit, because it's that constant voice in your head in the book, this bitter voice. I just followed the script, you know. I mean, I tried not to screw it up and get in the way of it, because it was an incredibly carefully written thing. I never consciously thought scene to scene or moment to moment, I need to be more likable here. I think it just came out through a wonderfully well-written script, so I don't take any credit for it. Inizia un po' scherzando, dice: ma io assomiglio a Barney Panofsky, dice insomma Paul Giamatti. Sì, sono anch'io un lovable rogue, cioè un amabile infame, un amabile rompiballe, un amabile brontolone, ecco, per usare il termine, you know. E poi naturalmente, esattamente come faceva il regista, usano molto questo intercalare. Poi nelle conferenze stampa mi sembra che anche i più esperti sono sempre un po' in imbarazzo, e quindi a maggior ragione questi intercalari che riempiono i vuoti, quindi you know. Anche Paul Giamatti lo riconosce, effettivamente è stato un po' addolcito questo Barney Panofsky. Sì, dice transferring to the script, quindi quella translation di cui parlavamo prima, from the page to the screen, quindi qui invece tira in ballo Giamatti subito lo script, cioè la sceneggiatura, c'è stato questo softening. To soften viene da soft, naturalmente, che vuol dire morbido. To soften vuol dire ammorbidire, così come strength è la forza, to strengthen, rafforzare. E qui dice che a lui è bastato, e qui devo dire molto molto umile, ma del resto si vede che è una persona insomma simpatica, dice I just followed the script, cioè a me è bastato seguire quella sceneggiatura che appunto aveva ammorbidito il personaggio. Quindi non è tanto merito mio se Barney è un po' meno irascible, un po' meno irascibile, un po' meno bitter, un po' meno acido che nel libro, ma è lo script, che era così bello che lui dice solo I tried not to screw it up. To screw vuol dire evitare, ma to screw up, phrasal verb, rovinare, to screw vuol dire anche bunga bunga, però in un altro contesto. Esatto, infatti temevo che te lo stessi traducendo solo in quel modo lì. No, scherzi a parte, l'abbiamo detto, è abbastanza umile, dice che non vuole addirittura prendersi i meriti di questa resa. E forse questo ce lo dicono spesso gli attori, che quando lo script è buono, praticamente il loro lavoro è fatto. E quindi dice this wonderfully written script, quindi questo è l'avverbio da wonderful, che è meraviglioso, wonderfully, meravigliosamente, quindi questa sceneggiatura scritta così meravigliosamente. I don't take any credit for it. To take credit for something vuol dire prendersi il merito di qualcosa. Lui dice non mi prendo il merito di niente, perché è tutto merito dello script. Beh, insomma, adorabile Paul Giamatti, adesso lo confesso, lui mi piace tantissimo. Ed è talmente adorabile che parla in maniera deliziosa anche di uno dei coprotagonisti, del padre di Barney Panofsky sullo schermo, Easy Panofsky, che è interpretato da uno straordinario Dustin Hoffman. E com'è stato lavorare con Dustin Hoffman? Working with him is amazing. You know, he's 30 years ago he would have played this part better, way better than I ever did. So it was wonderful to have him as the father, you know, it made perfect sense. He's kind of amazing to work with. He'll sort of, I said, you know, if he needs to feel that he's got to get deeper into the scene, he'll turn it into a kind of Picasso painting, the scene. It becomes a kind of cubist painting. It goes crazy. You just follow him. I did, because he knows what he's doing and I don't, and so I just went with him. And it's incredibly lively and alive and fun, and he pulls you along, and he's incredibly generous, and he was fantastic. I mean, there's nobody better, so made me hopefully a little bit better. Lo ritroviamo spesso negli attori americani, questo senso di grande rispetto nei confronti dei grandi maestri della recitazione americana, e non possiamo non dire che non sia un grande maestro il nostro Dustin Hoffman. E tra l'altro addirittura gli fa il complimento più grande, forse dice 30 years he would have played this part better, cioè ovviamente adesso non avrebbe potuto Dustin Hoffman interpretare il personaggio di Paul Giamatti per ragioni di età, ma se il film fosse stato realizzato 30 anni fa, beh, dice Giamatti, avrebbe interpretato questa parte meglio di me, anzi way better, molto meglio di quello che ho fatto io. Tra l'altro descrive il modo di recitare di Dustin Hoffman in maniera molto divertente. Sì, una sorta di pensiero laterale, perché insomma cosa lui dice? Sì sì, ha un modo di, insomma, fa diventare, he goes deeper into the scene, quindi scende in profondità nella scena che stanno recitando, tanto che la fa diventare un Picasso, Picasso painting, un quadro di Picasso nella fase cubista, poi ci precisa Giamatti, quindi un cubist painting. E qui dobbiamo un po' lavorare di fantasia, perché vi verrebbe mai idea di, insomma, di ricorrere a questa metafora per spiegare come si interpreta una parte, però effettivamente alla fine, senza così, intuitivamente ci fa capire che rende tutto molto molto confuso e allo stesso tempo affascinante, tanto che l'attore che segue, cioè lui in questo caso, appunto, lo segue in questa interpretazione picassiana di una scena. Sì, perché in un certo senso Dustin Hoffman sa quello che fa, Paul Giamatti dice io non lo so, ma lo seguo così va tutto bene. Quindi he knows what he's doing, lui sa che cosa sta facendo, I don't. Però tutto quanto è, e qui è molto bello perché usa tutti e due gli aggettivi, lively, che viene naturalmente da to live, che vuol dire vivere, quindi lively è molto viva la scena, and alive, che allo stesso tempo vuol dire vivo, però alive è in generale il contrario di morto, quindi quando sei morto non sei vivo, mentre lively è, diciamo, vivace, quindi è vivo e vivace allo stesso tempo. E addirittura dice lavorare con lui e recitare con lui rende la mia recitazione, il mio lavoro migliore. Sì, perché he pulls you along, questo è un altro phrasal verb, to pull, tirare, to pull along vuol dire portare con sé, perciò ti trascina in questo miglior modo di recitare. There's nobody better, he made me, hopefully, a little bit better, tanto che persino a me mi ha reso probabilmente, hopefully, o sperabilmente migliore. Straordinario il nostro Paul Giamatti, vi salutiamo ricordando la versione di Barney che è ancora al cinema. Vi ricordiamo anche che in edicola c'è il nostro English 24, grazie a Fabio Cantadori in regia, da Marta Cagnola e Giulia Crivelli. Un saluto e al prossimo English 24.